Soffia il vento e gonfia il veliero, s'alza il canto dell'ammiragliato. Da qui viene all'orizzonte straniero, domiamo le onde, il destino salato. Sull'isola stretta fra sabbia e corallo, c'è chi comanda col pugno e con senno. Soffronisco dal mantello scuro, come il mare di notte, profondo e sicuro. E vien sua sposa col cuore d'acciaio, che guida le flotte col pugno e col calamaio. Il vento e gonfia il veliero, s'alza il canto dell'ammiragliato. Commercio e acciaio, tempesta e mistero, si paga in monete o col fato segnato. Con botti di rum e vele cucite, offriamo cantieri a navi ferite. Esploriamo le isole, tracciamo la rotta, e là dove il mare nasconde si lotta. Dal porto al deserto, tra squali e relitti, nessun ci eguaglia sui flutti maledetti. E tra le quinte di un teatro galleggiante brilla Darla, l'attrice errante. Mille maschere e un solo sguardo, più tagliente del ferro, più dolce del bardo. Oh, oh, oh, oh, oh. Soffia il vento e tace il veliero, qualcuno mormora ad un capitano scaltro. E arbocchi il fiero dal sorriso leggero, fa cose che è meglio non dirlo ad un altro. E quando la luna galleggia nel cielo, c'è chi veglia il porto col passo leggero. Si dice sia freddo, si dice sia eterno, ma guai a nominarlo col rum d'inverno. Fratelli, sorelle del vento, noi siamo la gilda del vasto elemento. Col blu sotto i piedi e l'ambizione nel petto, presto il mare intero sarà il nostro tetto. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Soffia il vento e canta l'acciar, l'ammiragliato non può naufragar. Da qui viene al confine più oscuro, siamo il futuro del grande blu più puro.